Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Africa. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Mama Africa, Africa want to be free. Oh Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa. Radio Africa ogni sabato dalle 16.30 alle 18. As I know your system is a block against my people. Nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can. E vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità e quindi il conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa è il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa Laboratorio 2001, Via De Voci 56, Roma. Cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato, selezioni di Radio Africa, e cominciamo con delle selezioni di Afrobeat. Lui è Tony Allen, uno dei più significativi esponenti della scena musicale dell'Afrobeat. Lui era il batterista, già detto tante altre volte, di Fela Kuti. Dal suo album Secret Agent, questo Elevon Po. Thank you. Joker and King. Every one of them is longing to be free. Too many prisoners slip to pleasure and gold. Don't even know it's prison. I'm bound to the white road. Down by the change of ignorance, victimized by circumstances, from guilty law and justice blind. The history of magical love, you once man. So everywhere I look, I find. Allen, che ha innovato la scena dell'afrobeat e poi si è confrontato anche con moltissimi generi, aveva cominciato appunto a suonare insieme a Fela, era il suo batterista, ma poi ha fatto un percorso personale che l'ha portato appunto a dei risultati molto molto interessanti, e sono quegli artisti che dalla tradizione musicale africana riescono poi a tirar fuori qualcosa che è un po' di più, diciamo così, che riesce anche a mescolare la cultura africana con le culture moderne. E la cultura africana anche riesce a contaminare in maniera positiva anche il vecchio continente, come è il caso di Snowboy, e ce lo ascoltiamo in questo Jazz Acuti, che è qualcosa che è stato fatto in Gran Bretagna ma che ha molto a che vedere anche qui con la Nigeria. We'll be right back. Lui è un percussionista britannico, si chiama Mark Cotgrove ed è DJ da quando aveva 17 anni, influenzato dalla musica latina di Eddie Palmieri e poi però con delle, ha subito le influenze positive dell'afro, dell'afrobeat, e il suo nome d'arte appunto è Snowboy. Lo abbiamo visto tante volte nelle nostre trasmissioni come l'afrobeat non si sia limitato semplicemente alla Nigeria e la sua influenza si è estesa anche in altri continenti. Loro si chiamano i Chicago Afrobeat Project e appunto vengono da Chicago, sono 14 componenti di un ensemble che è molto influenzato dall'afro cubano, dal funk, dal jazz, dal juju e dall'afrobeat, e allora ce li ascoltiamo in questo brano che si chiama Mega Man, Chicago Afrobeat Project. No. don't tire out. They don't sell us finish, oh. We don't go take this from them again, oh. Everything don't become another person's own. How far we wanna go on with this one? Listen up. Them people useless. Them people roadless. Them people trouble. Si chiama Dennis Ferrer, è un DJ che si lavora a New York, produce e rimissa. Lui ha lavorato con i Masters at Work, Little Louis Vega e tanti altri, e anche lui, insomma, è sicuramente influenzato dalle sonorità afrobeat. Then People Go. E questo è Shakara, ma rifatto da DJ Onz. DJ Onz è un agitatore, viene da Donosti, un agitatore, come dire, culturale. Ha suonato e mescolato i Pizzicato Five, i Sindicato del Crimen, Negu Gorriak. E allora, dai Paesi Baschi, lui DJ Onz, questo è Shakara. Shakara Oloye, il brano di Fela Kuti era del 1972. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. Lui è Adam Goldstone, che è un produttore e un DJ di New York, con il suo Cultural Mambo Docking in Outer Space. Un brano che rimanda alle sonorità afrobeat, ma anche alla cultura Yoruba Ashanti della Nigeria. Yoruba, Yoruba, Ashanti, Ashanti. Ibo, Ibo, Mama. Questa prima mezz'ora è andata all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Da New York ce ne torniamo in Africa nuovamente. Tony Allen con i suoi Africa 70 Progress. Progress. want progress, questo era il grido, la richiesta di Tony Allen con questo suo brano. Poi quando si parla di globalizzazione basti pensare che questo genere musicale è influenzato dal juju, dalla musica cerimoniale tradizionale yoruba, ma anche dal jazz americano, dall'high life della Nigeria e del Ghana, e quindi riesce l'afrobeat ad essere un punto di riferimento che raccoglie tutte queste influenze musicali, ma non solo musicali, anche per certi versi culturali. Hard worker is looking for. E anche un po' questo il progresso di cui parla Tony Allen, un genere che ha influenzato anche gente come Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Max Roach. Progress. You can achieve progress in many ways, either by luck or by hard working. If you happen to be the lucky one, you can ride on, it's your time. Progress, progress, progress. Uh-huh. Progress. If you happen to be the hard worker type, you have to pray for long life and good health. So as to achieve progress, progress is what I'm looking for. Progress is what we're looking for. Progress, progress, progress. Uh-huh. Suffer, suffer for world, amen. Enjoy for heaven, amen. Christians go they yap, amen. In spirit to heavy news, amen. Muslims go they call, amen. Allahu Akbar, amen. Suffer, suffer for world, amen. Enjoy for heaven, amen. Christians go they yap, amen. In spirit to heavy news, amen. Muslims go they call, amen. Allahu Akbar, amen. Every day my people they inside bus, suffering and smiling. Every day my people they inside bus, suffering and smiling. 49 sitting, 99 standing, suffering and smiling. 49 sitting, 99 standing, suffering and smiling. Them go pack themselves in like sanding, suffering and smiling. Them go faint, them go wake like cock, suffering and smiling. Them go reach your house water no day, suffering and smiling. Them go reach your bed power no day, suffering and smiling. Them go reach your road police go slap, suffering and smiling. Them go reach your road and me go weep, suffering and smiling. Them go look pocket money no day, suffering and smiling. Every day not the same thing, suffering and smiling. Every day not the same thing, suffering and smiling. Every day not the same thing. This is what happens to we Africans every day. Suffer, suffer for world, amen. Enjoy for heaven, amen. Christians go they yap, amen. In spirit to heavy news, amen. Muslims go they call, amen. Allahu Akbar, amen. Suffer, suffer for world, amen. Enjoy for heaven, amen. Christians go they yap, amen. In spirit to heavy news, amen. Muslims go they call, amen. Allahu Akbar, amen. Open your eye everywhere, Archbishop na miliki. enjoyment. Imamu na baladu, Archbishop na miliki. Pope na enjoyment. Imamu na baladu. Every day my people inside bus suffering. Smile every day my people inside bus suffering. Smile 49 sitting 99 standing suffering. Smile 49 sitting. E lui è Kezia Jones, al secolo Olufemi Sanya Golu. Lui è nato in Nigeria ma vive a Londra, e questa è la sua elaborazione di Shuffling and Smiling. Ma ancora un brano di Fela, ma rielaborato da tanti altri: No Agreement con Tony Allen, Ray Lema, Baba Mal, Positive Black Soul e Archiship. La voce di Baba Mal, un brano tratto da Red Hot Riot, che è una collection dove moltissimi musicisti si confrontano con Fela e i suoi brani. No Agreement. (Musica) sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Radio Africa. Questo è l'intervento di Awadi e Positive Black Soul in questo lunghissimo brano dedicato a Fela Kuti, No Agreement. Con i Positive Black Soul li prendiamo al volo per trasferirci in Senegal, la regina del Mbalak, lei è Vivian Dour. On va à Yukon Kong, chef abandon, éleveur de jam, diplômé de fan, actuel maire des animaux de Anne, Chimom Lengjum, Nan Fazam, Deloko Yafam, Nangul Kochefam, Dok Doku Farata, Johewale Asaka, Amchi Baraka, Dinako de Lolima Denk, Balajant de Feng, Ming Mai Walu, depuis le 5, Konfalai Jake. Fan la ma kun dimbake fin koy tanke duma ko fekke fin koy teke yo wi do ko fekke kon naga rekle suma nope na le depose for ma jame taxi man, hey. Taxi man, why? You're way too free. Taxi man, hey. Taxi man, why? Yo, kana muno dawal? Dama yakam ci way gawal? Lobag manaw, talu mako dera fa gaw. Te mangi ni di waja be jaw. Eh xam, sa kanam ni fel. Ngay melni sindax. Gatt xel. Te mala yeb ya tu kel, nga feug mako sindel, ba toxal ci sandel. Ma jame. Taxi man, hey. Taxi man, why? Yo, I'm calling someone. You're way too free. Taxi man, hey. Taxi man, why? Who do you see this way? For my journey. Taxi man, hey. Taxi man, why? Si sta a fa, anche lei viene da Dakar, una rapace che si è molto spesa contro la pratica dell'escissione, soprattutto nella regione di Fouta, nel nord del Senegal. Il brano è Pum Pum Paya. Pum Pum Paya. Paya, comment nommer celui-là? Pour l'ovni. loro si chiamano Gokbi System, sono nati in uno slam di Dakar e sono Mamadou Ndiaye, Diassé Pouye e Papa Batie Pouye, e loro hanno cominciato a suonare intorno al 1995. Sono uno dei maggiori esponenti di quello che viene definito il rap Tassou. Tassou è un modo che si usa in Senegal di raccontarsi, di raccontare le cose, di trasmettere le conoscenze e le storie in maniera, diciamo così, ritmata, parlata velocemente, qualcosa che, diciamo, assomiglia molto all'hip hop. Con il Gokbi System siamo arrivati alle 17:32. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e la modulazione di frequenza è questa ancora, Radio Africa. Loro sono i Jemsi Sissoko, i Black Renegade, in questo Fire Time. Non mais là fraîchement je suis sur le cul parce que je... Allora invece sono un gruppo italiano che, di ragazzi africani che comunque suonano qui a Roma, che insomma è raro fino a poter presentare nella nostra trasmissione qualche gruppo africano che suona qua qui a Roma, i Tantam Morona. Allora ce li ascoltiamo in questo brano che si chiama Borogom Girl. Tam Morola, il brano che ci siamo ascoltati è Kankane Africa, un brano che parla dell'unità africana, della necessità per l'Africa di ritrovare finalmente l'unità senza paura. Un gruppo, il Tantam Morola, che suona qui a Roma, guidato da Mustapha Mbengue, e che magari avremo anche occasione di riascoltare oppure di invitare qui presso i nostri studi. 17:39 all'ascolto di Radio Africa, e allora dai Tantam Morola a un altro musicista afro reggae, l'ultimo album di Alpha Blondie, Mystic Power, e il brano è France Afrique. Le président africain Bonobo on donnait à boire à tout notre magot. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, les Africains vont se révolter. Oui, oui, ce jour-là, ça va chauffer. Fric, fric, fric, fric, c'est ça la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Fric, fric, fric, fric, c'est la France-Afrique. Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ce sera un affognage. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, une colère. Sera inaffognable. Oui, oui, une colère inaffognable. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ce sera inaffognable. Alpha Blondie dal suo ultimo album Mystic Power, questo brano France Afrique, nel senso ha staccato e frique, i frique in francese vuol dire i soldi, e che racconta appunto della France Afrique, di Tintin in Congo e dei presidenti venduti. Alpha Blondie dalla Costa d'Avorio, ma anche dalla Costa d'Avorio viene Tiké Jah Fakoly, un altro esponente dell'afro reggae africano, e anche lui in questo brano France Afrique. E ce lo ascoltiamo. Africa, why ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé la. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Afrique, du blague et tu es. Blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Babylone est très habile. Blague et tu es la la la la vigilance et résistance. Au Castella, Léon de Numboro Terre, Calibéria de Numitile. Au Angola de Numboro Terre, au Castella, Léon de Numboro Terre. Why, why? Why, why, would? La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blague et tu es. Blague et tu es, la la la la. Ils veulent nous blague et tu es. Tout va bon, non, bah non, blague, tu es. Blague, tu es, la la la la. Et veut nous blague, tu es. Blague, tu es. Il veut nous blague, tu es. Blague, tu es. Oh, et se réveillez-vous. Blague, tu es. Et che già Facolli dal suo album France Afrique, proprio il brano France Afrique, appunto, che parla di questo sistema che viene definito France Afrique, che ha fatto tanti danni in Africa. Entering a new era for our country, the South Africa we have struggled for, in which all our people, be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation, is at hand. Of the color simuke, praying together for body marituse. Sonke asibambaning esanta, we all Africans. E questo è un brano di Awadi, il rapper senegalese che con i suoi President d'Africa, un album appunto dedicato ai presidenti che hanno fatto l'Africa. Questo brano Amandla è dedicato a Madiba. Lord gave the world to all and not to one, none above the other is the way to live. We take and give, born free we shall achieve. Woko muntatanga nesebenzele phambili, plus a place of unity is all we need in this world. It shouldn't be about races, cuts up with some affairs. Squad that came down Awadi, man Africa. Cause I fail now. Combien de combattants, combien de styles, combien de Mandela, combien de sœurs, de frères ont vu des pères se faire bomber là. Combien de noirs, de rouges ou bien de blancs ont été pendus là. La force de Mandela, la vérité c'est qu'il faut pardonner, évoluer. On n'oublie pas mais on doit développer l'identité nouvelle qui prend en compte toutes les entités. Abadis, Guatakem, Mandela c'est l'unité. This myth of a constitutional, democratic political order, in which regardless of color, gender, religion, political opinion or sexual orientation, the law will provide for the equal protection of all our citizens. Speeches were made the songs will be played. Africa celebrate, join the team making change. I can see Africa in this day and age, shouting out a mantra, cause we on the same page. I spy this song with a different facial features. Mara, song that's Yazoo, what Madiba speech means the Africa God. We at the top of the list. Stand tall and even put up your fist. From jail cells to office parks lit. Revolution ignite with a spark. See red, Libolodiki says Funa Emalini, but I'm African. To do this, as long as Neni. This needs unity of purpose. It needs unity in action. It requires us all to work together to bring an end to division, an end to suspicion, and to build a nation united in our diversity. They want change, and change is what they will get. E allora, 17.52 all'ascolto di Radio Africa, dai microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50, ultimi 10 minuti, un quarto d'ora in cui generalmente appunto dai microfoni di Radio Africa si racconta un po' quello che succede in Africa. In questi giorni naturalmente l'attenzione è concentrata sulla sorte di Nelson Mandela. C'è un aspetto che poi forse non è ancora molto ben evidenziato e che invece Alan Gresh in un articolo che risale un po' di tempo fa, nel 2010, mette bene in evidenza con il suo titolo a proposito dell'imbalsamazione mediatica e l'amnesia politica, e nel senso che appunto Mandela è diventato una sorta di icona, una figura che insomma trascende il suo percorso politico personale, e questa trascendenza, diciamo così, in qualche maniera fa sì che mette in moto una sorta di amnesia politica rispetto a come si è comportato, si sono comportate le grandi potenze riguardo all'apartheid e anche al ruolo di Mandela dell'African National Congress. E dice Alan Gresh che lui è stato un eroe dei nostri giorni, che ha cambiato la storia. Ci sono copertine che testimoniano un'adorazione condivisa, parla anche del film Invictus di regista Clint Eastwood, che ha rappresentato appunto l'apoteosi di Mandela. Però diciamo, giustamente lui si pone il problema se di identificare un Mandela storico, tanto più appunto che la leggenda di Mandela apparirebbe altrettanto lontana rispetto per esempio a quella dei Vangeli, ma tanto sembra intollerabile ammettere che questo nuovo messia di cui parla tanto la stampa è stato considerato per tanto tempo un terrorista, un alleato dei comunisti e dell'Unione Sovietica, un rivoluzionario determinato. L'African National Congress è un alleato strategico del Partito Comunista Sudafricano, a prescindere poi dall'est, diciamo così, della politica dell'African National Congress, ma è un'alleanza che ancora sussiste. E sia l'African National Congress si è lanciato nella lotta armata nel 1960 dopo il massacro nella township di Sharpeville il 21 marzo, che fece molte decine di morti. I neri manifestavano contro il sistema dei pass, il passaporto interno, e Mandela, fino ad allora sostenitore della lotta legale, a quel punto si persuase e mai la minoranza bianca avrebbe rinunciato pacificamente al suo potere e alle sue prerogative. E così l'African National Congress, dopo aver utilizzato i sabotaggi, utilizzò l'arma del cosiddetto terrorismo fra virgolette. Mandela fu arrestato nel 1962 e condannato, ma Madiba rifiutò a partire dall'85 le numerose offerte di liberazione in cambio della sua rinuncia alla violenza. È sempre l'oppressore, non l'oppresso, che determina la forma della lotta, scriveva nelle sue memorie, e se l'oppressore utilizza la violenza, l'oppresso non ha altra scelta che rispondere con la violenza. E solo questa, accompagnata da crescenti mobilitazioni popolari e sostenuta da un sistema internazionale di sanzioni, con il tempo sempre più rigido, ha potuto dimostrare l'inanità del sistema repressivo e condurre il sistema bianco al crollo. We'll be right back. Africa, Africa, Africa wanna be free. Acquisito il principio un uomo un voto, Mandela e l'African National Congress seppero allora dar prova di accortezza nella realizzazione della cosiddetta società arcobaleno e nelle garanzie accordate alla minoranza bianca. Rinunciarono persino, ma questa è un'altra storia, a insistere sul loro progetto di trasformazione sociale, e i risultati purtroppo si sono visti. La strategia dell'African National Congress beneficiò di un sostegno materiale e morale da parte dell'Unione Sovietica e del campo socialista. Numerosi quadri furono formati e addestrati a Mosca e a Hanoi, e il conflitto si estese a tutta l'Africa australe, dove l'esercito sudafricano tentò di affermare la propria egemonia. L'intervento delle truppe cubane in Angola nel 1975 e le vittorie che riportò in particolare a Quito Cuanavale, che è stata la battaglia di carri armati più grossa nella storia dell'Africa nel gennaio dell'88, contribuirono a scuotere la macchina da guerra del potere razzista e a confermare l'impasse nella quale esso si trovava. E la battaglia di Quito Cuanavale costituì, secondo Mandela, una svolta nella liberazione del nostro continente e del mio popolo. E Mandela non lo dimenticò e gli fece del presidente Fidel Castro uno degli ospiti d'onore delle cerimonie della sua ascesa alla presidenza nel 1994. E in questo scontro fra la maggioranza della popolazione e il potere bianco, gli Stati Uniti, il Regno Unito, Israele e la Francia, questa fino al 1981, combatterono, per così dire, dal lato sbagliato, quello dei difensori dell'apartheid, in nome della lotta contro il pericolo comunista. Chester Crocker, uomo chiave della politica dell'impegno costruttivo del presidente Ronald Reagan in Africa australe negli anni Ottanta, scriveva: «Per la sua natura e la sua storia, l'Africa del Sud fa parte dell'esperienza occidentale ed è parte integrante dell'economia occidentale». Washington, che aveva sostenuto Pretoria in Angola nel 1975, non esitò ad aggirare l'embargo sulle armi e a collaborare strettamente con i servizi di informazione sudafricani, rifiutando qualsiasi misura coercitiva contro Pretoria. Mentre aspettava un'evoluzione graduale, la maggioranza nera era chiamata alla moderazione. E il 22 giugno del 1988, 18 mesi prima della liberazione di Mandela e della legalizzazione dell'African National Congress, il sottosegretario del Dipartimento di Stato americano John Whitehead spiegava davanti a una commissione del Senato: «Noi dobbiamo riconoscere che la transizione verso una democrazia non razzista in Africa del Sud richiederà inevitabilmente più tempo di quanto speriamo». Ed egli pretendeva che le sanzioni non dovessero avere alcun effetto demoralizzante sulle élite bianche e che esse penalizzassero in primo luogo la popolazione nera. E quindi insomma, la posizione degli Stati Uniti era una posizione, diciamo così, perlomeno ambigua, ma anzi di sostegno esplicito nella tale fatti al potere dell'apartheid, nell'ultimo al sistema dell'apartheid. Nell'ultimo anno del suo mandato, Ronald Reagan tentò un'ultima volta, ma senza successo, di impedire al Congresso di punire il regime dell'apartheid. Erano i tempi in cui si celebravano i combattenti della libertà afghani o nicaraguensi e invece si denunciava il terrorismo dell'African National Congress e dell'OLP. Il Regno Unito non fu da meno. Il governo di Margaret Thatcher rifiutò qualsiasi incontro con l'African National Congress fino alla liberazione di Mandela nel febbraio del 90. E durante il summit del Commonwealth di Vancouver, nell'ottobre dell'87, si oppose all'adozione di sanzioni. Interpellata sulle minacce dell'African National Congress di colpire gli interessi britannici in Africa del Sud, Margaret Thatcher rispose: «Ciò dimostra che tipo di ordinaria organizzazione terroristica sia l'African National Congress». Thank you. Ed erano i tempi in cui l'Associazione degli Studenti Conservatori affiliata al partito distribuiva dei poster proclamando impiccate Nelson Mandela e tutti i terroristi dell'African National Congress. Sono dei macellai. E il nuovo ministro del Regno Unito, David Cameron, ha finalmente deciso di scusarsi per questo comportamento solamente nel febbraio del 2010. Ma la stampa ha avuto buon gioco a ricordargli che lui stesso si era recato in Africa del Sud nell'89 su invito di una lobby antisanzioni. E Mama Africa, Africa. Uno degli alleati più fedeli, indefettibile del regime razzista di Pretoria fu Israele, fornendogli armi e aiutandolo nel suo programma militare nucleare e missilistico. Nell'aprile del 75 l'attuale capo di Stato Shimon Peres, allora ministro della difesa, firmò un accordo di sicurezza fra i due paesi. E un anno più tardi il primo ministro sudafricano Balthasar Forster, un vecchio simpatizzante nazista, veniva ricevuto con tutti gli onori in Israele. I responsabili dei due servizi di informazione si riunivano annualmente e coordinavano la lotta contro il terrorismo dell'African National Congress e dell'OLP. E la Francia non era di meno, quella del generale De Gaulle e dei suoi successori di destra imbastì delle relazioni senza complessi con Pretoria. In un'intervista pubblicata nel numero del Nouvel Observateur citata all'inizio, Jacques Chirac si vantò del sostegno dato in passato a Mandela. Sull'argomento, come molti dirigenti della destra, egli ha la memoria corta, il giornalista che lo ha intervistato ha accettato senza protestare la sua amnesia. Primo ministro fra il 74 e il 76, Chirac formalizzò nel giugno del 76 il contratto con Framatome per la costruzione della prima centrale nucleare in Africa del Sud. In quell'occasione l'editoriale di Le Monde notava: la Francia è in curiosa compagnia nel piccolo gruppo di partner giudicati sicuri da Pretoria. Viva la Francia, l'Africa del Sud diventa potenza atomica, così titolò a tutta pagina il popolare giornale sudafricano Sunday Times. Sebbene nel 75 avesse deciso in particolare, su pressione dei paesi africani, di non vendere più armi direttamente all'Africa del Sud, la Francia onorerà ancora per molti anni il contratto in corso, mentre i suoi blindati Panhard, gli elicotteri Alouette e Puma saranno costruiti localmente su licenza. Malgrado il discorso ufficiale di condanna dell'apartheid, Parigi mantenne, almeno fino all'81, numerose forme di cooperazione con il regime razzista. Alexandre Marechet, l'uomo che diresse il servizio di documentazione esterna e di controspionaggio fra il 70 e l'81, ha riassunto la filosofia della destra francese. L'apartheid è sicuramente un sistema che si può deplorare, ma bisogna farlo evolvere con dolcezza. Se l'African National Congress avesse ascoltato i consigli di moderazione o quelli del presidente Reagan, Mandela sarebbe morto in prigione, l'Africa del Sud sarebbe precipitata nel caos e il mondo non avrebbe potuto fabbricare la leggenda del nuovo messia. E allora 18.05, Radio Africa finisce qui per questo sabato, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, perché da adesso fino alle 19.30 ci sarà Soul Peanuts e il suo jazz. Africa, Africa, Africa. Africa wanna be free. Aliados do governo colonial fascista de Portugal votaram em bloco contra ele, no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta resolução tem e terá, pois, um caráter de primeira importância no desenvolvimento ulterior da nossa ação político-militar para expulsar da nossa terra os criminosos agressores comunistas portugueses. Diz que sim, que é com a beija assim, faci. Para nós, homem que luta contra branco, pode se defender. Sou homem que luta certo, nunca para não chamar o Guinnessi. A bom tipo matar o povo próprio, irmão, tu vai. Mas não, não cabeça o nome, nunca cara sai. Ah, mil, cacabral. Tudo Guinnessi, se era bom som. Não faço suma cabral, não luta para no chão. Homem que faci, guerra de libertação. Seguindo a Cabo Verde na chamada nação. 24 de setembro, nunca nada esqueceu. Ah, bel, já. Podemos ouvir é que é brabo, merece merda. E nesse que você é do, faz por parte. Glória e favor, grande respeito. Balo Berro. Combattant devant la mort, il est redoutable. Comme le lion devant la mort, il est redoutable. Si la Guinée, elle est libre, elle est redevable. Et le Cap-Vert, s'il est libre, il est redevable. Mettre ensemble toutes les forces et les unifier dans des valeurs africaines qu'il faut magnifier. Amilcar, condamné par le Portugal, à ne pas voir tous les fruits de son idéal. Oh, Amilcar Cabral, botando a peito de Guinée, na coração de Cabo Verde, dos povos imagem de Bofé, África canta unidade. Bye. Acabar.